in povertà, ora in ricchezza. Desiderio, paura, libertà, bisogno di chiarezza. Nella polvere un rifugio, ripara dall'offeso. Ritiro per chi teme, il nemico è la resa. Thank you. L'estetica del lavoro e lo spettacolo della merce umana. We'll be right back. Thank you. una vetra, una mela a cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca, insieme attraversarono il mare, impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino, la mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partirono. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice, pieno di gente felice. Si unirono a quella gente e scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e lui comincia un giro tondo. Salì, salì, salì, salì, salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu, prendi tutto. la realtà. Districare i governi non ci funziona più, spezza poi tu.